Il gastronauta di Davide Paolini. Bene, oggi parleremo di pane perché il pane sicuramente è uno degli ingredienti più importanti della tavola. Io più volte da questa radio ho detto si mangia un pane pessimo in Italia, mediamente ovviamente, con le dovute eccezioni anche rispetto ad altri paesi. Però diciamo che ultimamente, andando un po' in giro, ho scoperto che ci sono tante novità, e allora perché non portarle alla ribalta, non farle conoscere? Ebbene, cominciamo dalla Sardegna, da un centro di ricerche, dalla Sardegna Ricerche, appunto si chiama, e con Raimondo Mandis. Buongiorno Mandis. Buongiorno a tutti. Bene, io so che voi siete particolarmente attivi, anzi l'ho visto con i miei occhi, nelle ricerche che riguardano il pane, e addirittura vi state battendo perché 6 pani caratteristici della Sardegna, e poi magari li nomineremo, possono ottenere l'IGP. Vorrei ricordare che in Italia di pani riconosciuti dalla Comunità Europea con i marchi abbiamo Genzano e abbiamo Altamura ad oggi. Bene, e volevo chiederle, visto che voi vi state battendo per questo, ma che anche state facendo delle ricerche abbastanza innovative. Ecco, si parla sempre di lievito madre naturale, e con grande sorpresa io ho preso da voi che avete messo a punto un lievito naturale liquido. È così? Sì, esatto. Grazie a, diciamo, una parte della struttura Sardegna Ricerche, è l'agenzia della Regione Sardegna che si occupa di ricerca e innovazione, ha al suo interno diverse strutture, fra cui Porto Conte Ricerche, che si occupa di tecnologie alimentari e di biotecnologie, che ha lavorato a lungo, su spinta anche di un dipartimento universitario della Facoltà di Agraria di Sassari, che si occupa appunto di scienze alimentari e ambientali, per lavorare sulla direzione del recupero dell'utilizzo del lievito naturale, quindi della pasta madre acida, che era, diciamo, una delle caratteristiche del pane in Sardegna fino agli anni 50, quindi non troppo tempo fa sostanzialmente. E sulla base di queste ricerche abbiamo coinvolto un pannello di 29 panifici e 4 dei consorzi di tutela, appunto, che sono nati per promuovere il riconoscimento di tutela dei marchi, affiancandoli con, diciamo, il nostro staff tecnico, e al contempo lavorando in due direzioni: quella della promozione delle tipologie, appunto, del pane tradizionale per cui è stata richiesta l'indicazione di tutela, che sono il coccoi, il modizzosu, il civraju, il pane carasau, conosciuto insomma anche come carta da musica, il pistoccu e la spianata di Ozieri. E su tutte queste tipologie il tentativo che stiamo portando avanti, peraltro riuscito e spero insomma saporito per chi lo ha assaggiato, è quello di produrre il monoporzione di tutte queste tipologie tradizionali, che per chi le conosce sa che hanno delle pezzature molto grosse. Questo serve ad avvicinare, diciamo, i consumatori che hanno un consumo inferiore di pane, ma anche a portare questi formati di pane nei canali Horeca, soprattutto nella parte di ristorazione collettiva, nelle mense, negli ospedali. L'aver messo a punto il liquido, cioè la madre in liquido, cosa comporta? Quali sono, diciamo, i benefici? Fondamentalmente consentire ai panificatori di reintrodurre il lievito naturale dentro i propri cicli produttivi, compatibilmente con il fatto che oggi si panifica più volte durante la giornata, e quindi, a differenza del passato, non si può attendere che questa pasta madre maturi e poi venga impastata insieme a tutto il resto dell'impasto. Quindi è una versione moderna. Ecco, una mia cattiveria, ma il risultato qualitativo è lo stesso del lievito madre, quello lavorato ogni giorno, rinfrescato, come fanno tanti panettieri? Il risultato finale sì, è lo stesso, le prove che stiamo conducendo sono molto interessanti, e l'esperienza di Porto Conte diciamo che è da oltre 4 anni che sta lavorando su questa frontiera. Sembra molto molto interessante. Il pane è durevole, è saporito, mantiene il suo sapore anche una volta indurito, quindi si presta entrare come ingrediente nelle preparazioni alimentari a base di pane, che sono uno dei tesori, diciamo, della nostra cucina intera, naturalmente, non solo la nostra regionale, e questo ci lascia ben sperare che abbia buoni risultati. Bene, grazie Amandis. Il gastronauta. Di nuovo a parlare di pane. A chi non interessa il pane, cari gastronauti e cari radioascoltatori, distinguiamoli così. E abbiamo sentito appunto cosa sta succedendo in Sardegna, che è una regione dove ancora il pane mediamente è davvero di grandissimo livello. Poi abbiamo sentito le varietà che ci sono in questa regione. Vorrei ricordare che in Italia sono stati classificati circa oltre 360 tipologie di pane, quindi siamo un paese ricco di pane e speriamo che ritorneremo ad essere un paese ricco anche di qualità di pane. Bene, abbiamo tantissimi radioascoltatori. Beh, sentiamone uno, poi dopo passiamo a Pecorella e ad altri ospiti. Sergio dalla provincia di Livorno, buongiorno Sergio. Buongiorno signor Paolini. Mi dica. Pronto Sergio? Pronto, sì. Parli pure. Allora, niente, sono un produttore di pane, appunto il pane di Montegemoli, che è un pane cotto a legna fatto con una farina particolare, una farina tipo 2 ormai un po' dimenticata. Bene, Bene, sì, conosco il posto, perché una volta ho ricevuto il pane da un amico. Quanti panettiere siete voi? Solo. Lei è solo? Siamo mio fratello. Siete soli, sì. Benissimo. Credevo che nel comune ci fossero più fornai a rappresentare questo pane. Bene, grazie a Sergio dalla provincia di Livorno. Ora sentiamo, appunto, andiamo a Salemi. Salemi è il paese, il borgo dove è diventato sindaco Sgarbi e dove c'è Toscani come assessore alla creatività, che stanno un po' rivoluzionando questo paese. Però andandolo a visitare ho scoperto che c'è una cosa straordinaria ed è il Museo del Pane, dove dentro ci sono veramente dei propri e veri ricami. C'è un pane artistico, è un pane artistico che ha, diciamo, dei vari momenti con varie feste. Il clou è la festa di San Giuseppe del 19 marzo. Ma sentiamo da Beppe Pecorella, che è il presidente della Proloco. Pecorella, ma questa tradizione è lontana nel tempo e continua? E allora, buongiorno a tutti, caro Davide, e a tutti gli ascoltatori. Sì, la nostra, per come hai detto, la nostra tradizione si perde nel tempo, è una tradizione molto lontana che ci viene tramandata dai nostri antenati. La tradizione del pane su Salemi ha una realtà diversa rispetto a quella che è la panificazione, per come è stata osservata nei precedenti interventi. Noi del pane abbiamo diversi momenti che releghiamo a delle realtà legate alle tradizioni, alla chiesa. Quindi partiamo con il 3 febbraio, che è la festa di San Biagio, e abbiamo i cosiddetti cavadduzzi e cuddurebbe di San Biagio, che sono legate a per ricordare che il santo salvò Salemi da un'invasione di cavallette nel 1542. Poi abbiamo la tradizione di San Giuseppe, che è la festa clou particolare che darò notizia successivamente, e quindi andiamo a quelle che sono le altre feste che fanno parte, legate sempre al pane, della festa di... Bene, ci sono tante feste, ok, di tanti santi. Volevo chiedere questo, ma chi è che produce questo pane, Pecorella? E allora la festa particolare è legata alla realtà del 19 marzo. Il 19 marzo è la festa di San Giuseppe, quindi le donne dei quartieri, le donne delle famiglie, le donne delle borgate si riuniscono e realizzano dei pani artisticamente lavorati. Questi pani vengono lavorati in modo particolare e diventano dei veri e propri gioielli. Bene, sì, io li ho visti, ora la fermo Pecorella. Ok, rimanga con noi, li ho visti questi pani e devo dire che sono veramente dei gioielli. Ma sentiamo Giuseppe da Roma, radioascoltatore, buongiorno Giuseppe. Buongiorno, senta, io un riferimento ai pani di Salemi, sono curioso di sapere, ma sono in vendita, dove si possono trovare, a Salemi o... Ok, sentiamo Pecorella, buongiorno Pecorella di nuovo. Sì, Il pane di Salemi in questo momento, in questa fase, siccome è legato ad un evento, diciamo legato ad un momento tradizionale, non è in vendita, ma viene soltanto distribuito ed omaggiato a tutti i visitatori che in quel particolare momento del 19 marzo, quindi a cavallo della festa di Salemi, arrivano a Salemi, fanno visita alla nostra città e al museo. Viene omaggiato, almeno in questo momento e con queste condizioni. Bene, e io vorrei ricordare anche che a Salemi è nata così un marchio che si chiama Salemi e Pepemi, un'invenzione toscaniana questa, dei ragazzi di Toscani, e quindi che cercheranno di promuovere, di far conoscere questo pane da ornamento, che potrebbe essere messo anche nelle tavole e così appunto al posto di fioriere o di altre cose, perché dal punto di vista artistico lo merita. Grazie a Beppe Pecorella, a presto a Salemi il 19 marzo, allora tutti il 19 marzo a Salemi. Bene, continuiamo con Leonardo Spadoni. Bene, Leonardo Spadoni e i mulini Spadoni, questo è diciamo l'azienda di questo personaggio, il quale negli ultimi tempi so che sta lavorando su il pane fatto in casa, perché a dire il vero il pane fatto in casa è diventato davvero un qualcosa di molto diffuso. Io ho molti amici che fanno il pane in casa perché non si fidano più del pane che trovano fuori, ed è un qualcosa che sta veramente prendendo piede. Leonardo Spadoni, ci fa così il punto della situazione sul pane fatto in casa? Ma volentieri, diciamo che è una moda che è esplosa in tempi relativamente recenti. Probabilmente una degli inneschi è stata sicuramente la presenza adesso sul mercato di macchine per pane assolutamente economiche, cioè mentre una volta costavano milioni, venivano dall'America, erano un po' improbabili come così capacità di produrre qualche cosa. Adesso invece queste macchinette che costano pochissimo hanno anche di buono che danno dei risultati sicuri, e tutto con una praticità notevole: si mette dentro il prodotto, si aggiunge acqua e un cucchiaio d'olio ed esce il pane già cotto, dopo essere stato impastato, lievitato e cotto. Insomma, è una cosa quasi miracolosa. Ma Leonardo, costa molto fare il pane in casa? Beh, diciamo che il pane in casa ovviamente è come tutte le cose domestiche, costa meno che andarlo ovviamente a comprare. Il vantaggio grosso è non solo nel fatto che uno, diciamo, con un chilo di farina fa quasi un chilo e mezzo di prodotto, ma soprattutto può scatenare tutte le fantasie di questo mondo e tirar fuori dei pani particolari che magari sono anche difficili da trovare sul mercato. Naturalmente la qualità dei professionisti resta una cosa importante. Il limite forse di queste cose qui è nelle forme, che sono leggermente più uguali sempre a se stesse, però questo ha portato anche un grande vantaggio. Praticamente il fatto di utilizzare queste macchine, che sono un po' diciamo monocordi come tipo di prodotto, come caratteristiche del prodotto, e comunque la comodità di poter usare delle vaschette da plum cake che garantiscono un risultato anche a mano, ripeto. È grandioso. Bene, rimani con noi perché poi continueremo, ti farò altre domande. Sentiamo Annalisa dalla provincia di Firenze. Buongiorno Annalisa. Buongiorno. Allora, io infatti faccio il pane a lievitazione naturale, fra l'altro, da un po' di anni senza la macchinetta, perché con la macchina è un po' più difficile. Ma a casa lei lo fa, Annalisa? Sì, a casa, non sono una professionista. E quello che volevo dire è proprio il fatto che sì, voi avete accennato alla lievitazione naturale, ma forse non tutti sanno che differenza c'è, anche dal punto di vista nutrizionale e di durata, poi, fra un pane fatto con la pasta acida e un pane fatto con lievito di birra, senza niente levare al lievito di birra, per comodità, velocità, tempi e sicurezza del risultato. Però penso che possa valere la pena, ecco, per chi prova a fare il pane in casa, a provare a farlo anche con la pasta acida. E non solo, io vorrei anche una maggiore serietà da parte dei fornai, che qui sono stata in un forno ieri e ho visto c'è scritto tutto il nostro pane a lievitazione naturale, intendendo fatto con il lievito di birra. È vero che il lievito, anche quello con il lievito di birra, è naturale, non è artificiale, però comunque si intende normalmente lievitazione naturale una lievitazione acida e non quella alcolica fatta con il lievito di birra, e quindi mi sembra poco serio. ci dovrebbe essere una maggiore attenzione anche da parte dei fornai a differenziare i diversi tipi di pane. Bene, la ringrazio Annalisa del suo puntuale intervento. Ebbene, uno dei pani più famosi in questo paese è sicuramente il pane di Altamura e non tipo Altamura, ma ora andiamo a scoprire qual è la differenza. Buongiorno, Annunzio Nini Vaggi. Buongiorno dottor Paolini. Bene, Nini Vaggi è uno dei fornai, dei panettieri, diciamo, cioè più bravi che sono ad Altamura. Ringrazio dottor Paolini. Nunzio, ma in giro prolifera il pane tipo Altamura. Lei cosa ha da dire in proposito? Bisogna differenziare il pane tipo Altamura dal pane di Altamura, anche perché il pane tipo Altamura non si può più chiamare, perché il pane di Altamura è solo quello dopo, quello che ha il bollino. Quindi, il bollino che ci dà il ministro delle politiche agricole e forestali. Quindi lei dice in giro per l'Italia ci sono molti, diciamo, molti negozi che lo contraffano, certo. C'è una contraffazione perché quel tipo, ma guardi che questa contraffazione su moltissimi prodotti, mettono il tipo vicino invece del D, è un gioco di parole e di poche parole, certo, però purtroppo, molto su queste cose qua, purtroppo certo. Il consumatore molte volte non conosce questi aspetti particolari. Nunzio, una cosa le volevo chiedere, il pane di Altamura a che cosa deve questa grande notorietà? Qual è secondo lei l'elemento più importante? L'elemento più importante è anche la lievitazione, perché da noi c'è la lievitazione lattica e non quella alcolica, perché noi usiamo solo lievito naturale a pasta acida. E poi sa benissimo che un prodotto DOP è un prodotto che è prodotto in loco con le materie prodotte anche in loco. Non è un IGP che si produce in loco e con le materie prime, diciamo, che arrivano anche da altre parti o dall'estero o da chi che sia, diciamo. Ecco la differenza tra un pane DOP, cioè un prodotto DOP e un prodotto non DOP. Bene, allora ricordiamo con Nunzio pane di Altamura e non tipo Altamura. Io volevo fare una domanda così abbastanza pericolosa a Leonardo Spadoni, visto che produce farine, e io ho detto che in Italia si mangia mediamente un pane non buono, peggiore di altri paesi d'Europa. Ho visto che un radioascoltatore mi contesta questa affermazione. Tu cosa ne pensi, che giri moltissimo anche tu? Ma io credo che ci sia del pane buono e del pane meno buono. Il problema, credo che l'abbiano toccato i due interventi prima di me, effettivamente è vero, cioè occorre fare un ritorno alle lievitazioni intese come erano intese una volta, senza ricorrere a questi mezzucci che adesso ci sono, che sono questi additivi, che cosiddetti miglioratori, che di miglioratore non hanno altro che il migliorante, solo il nome. Perché questi in realtà accorciano i tempi di produzione e ovviamente rendono più facile tante lavorazioni, però sono loro i responsabili di questo gusto praticamente inesistente del pane, questo aspetto un po' da spugna per lavare gli anzuoli. In realtà il ragionamento è molto giusto, quello che il pane è un prodotto che ha bisogno del suo tempo per lievitare, per dare tutti gli aromi, tutti i profumi che deve avere. Sul discorso di lievitazione naturale è verissimo anche quello che dicevano, è naturalmente un'altra cosa. Ricordo che adesso però c'è una tecnologia, come diciamo spesso, delle tecnologie ce ne sono delle buone e delle cattive, quella che dicevamo poc'anzi era non è delle migliori, invece adesso ci sono dei sistemi per produrre del lievito naturale, della pasta acida e poi essiccarlo. Questi sono sistemi innovativi che permettono di avvicinarsi e di innescare i gusti e i profumi del pane tradizionale. Noi ad esempio dentro i nostri prodotti per pane, sia il tipo bianco che quello nero e 7 cereali, mettiamo appunto pasta acida che viene poi essiccata e trasformata in farina. Bene. Queste sono innovazioni assolutamente positive, perché si ritorna, diciamo, all'antico con il moderno. Bene, grazie a Leonardo Spadoni. Il gastronauta. Pane, sempre pane. Bene, abbiamo ricevuto moltissimi sms di persone che si producono il pane in casa, non solo con le macchinette ma proprio direttamente. Quindi questo, diciamo, che avevamo dato all'inizio come una realtà, e visto anche il numero così di sms ci rendiamo conto che veramente si sta diffondendo, non dico questa moda, io direi questa abitudine di farsi il pane in casa, forse perché fuori si mangia un pane che non è all'altezza della situazione o come non lo era anni fa. Oggi c'è un pane, lo ridico per questo radioascoltatore che dice che assolutamente in Europa il pane è peggiore del nostro. Non sono assolutamente d'accordo. Ad esempio, prendendo come esempio la Germania, in Germania si mangia un pane migliore che in Italia, mediamente, fatte le debite eccezioni, come ho già premesso. Ma sentiamo innanzitutto il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Sentiamo Gianna da Lecce. Buongiorno Gianna. Buongiorno a lei. Volevo solo dare una piccola informazione e fare invece una domanda al signor Spadoni. La piccola informazione è che anche a Lecce, a Copertino precisamente, il 19 marzo si svolge la festa di San Giuseppe Patriarca, e anche qui da noi vengono fatti dei pani molto belli da vedere. Si vengono preparate delle tavolate imbandite per una ricorrenza, questa ricorrenza religiosa legata tra l'altro ad una tradizione molto molto antica. I pani non saranno sicuramente bellissimi come l'ascoltatore del paese, Senisi credo? Salemi, provincia di Trapani. In provincia di Trapani parlava di veri e propri gioielli. Sì, guardi, li ho visti il museo e posso garantire che sono dei gioielli. Bellissimi. Invece per quanto riguarda il signor Spadoni, qui a Lecce fortunatamente molte famiglie iniziano a fare il pane fatto in casa, e anch'io riesco a farlo, un buon pane con il lievito madre, per cui con la pasta acida. Però ho notato la netta differenza sull'utilizzo delle varie farine per tenere in vita questo lievito. Abbiamo necessità del gamunnaio del signor Spadoni, perché ha un profumo completamente diverso dalle altre manitoba. Bene, guardi, siccome chiedere perché non è facilmente recuperabile qui a Lecce, io la prendo da Bari e quindi è un po' difficoltoso. Io non so se Spadoni è in linea e se riusciamo a recuperarlo. Comunque abbiamo con noi un protagonista di produttore di farine, che abbiamo Fausto Marino del mulino Marino. Buongiorno Marino. Buongiorno a lei signor Pallini e a tutti i suoi ascoltatori. Ha sentito questa domanda lei? Sì, diciamo che io sono un mugnaio, mi definisco un mugnaio, ma anche noi in casa per diverse prove, per provare la nostra farina, amiamo panificare. La signora chiedeva una farina particolare per il rinfresco del lievito naturale. Noi diciamo che riusciamo anche a rinfrescare i nostri lieviti, uno creato in collaborazione con un panificatore di nome Gabriele Bonci, anche con farine che non sono essenzialmente manitoba, ma farine macinate a pietra naturale, che quindi contengono vitamine idrosolubili, che hanno quindi maggior nutrimento per gli lieviti. Queste farine contengono ancora il germe, che è la parte vitale del chicco, e sia sul rinfresco del lievito naturale, sia sul prodotto finito ottenuto mediante il lievito naturale, questo tipo di lievito naturale, abbiamo degli sviluppi, ma anche dei profumi molto molto molto alti, molto curiosi, molto particolari. Bene, rimanga con noi Marino, poi le chiederò altre cose. Sentiamo Gianfranco da Pistoia. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a lei e tante cose. Dunque, io volevo dire che in tempo di guerra dai contadini della provincia di Pistoia, della campagna, facevano il pane in casa e duravano 8 giorni, perché c'erano delle farine macinate, come diceva poc'anzi, con le pietre, e invece oggi ci sono i mulini a cilindro che prima di fare la farina bagnano il grano, le estraggono tutte le sostanze più nobili e dopo il resto lo mandano a panificazione. Ecco perché il pane non è buono, e questa è la ragione. Bene, grazie Gianfranco della sua testimonianza. Io voglio tornare con Marino un secondo per chiedere a Marino, io le faccio una domanda, diciamo, dalla parte del consumatore. Volevo chiederle, lei produce farine di grande qualità, ma c'è sempre più richiesta delle farine di grande qualità da parte, diciamo, di panettiere, fornai, pasticceri e via di seguito, oppure diciamo che si ricorre sempre più ad altre tipologie di farina? Allora, ultimamente la tendenza da parte dei fornai, dei pasticceri, è quella di ritornare un po' alle farine, diciamo così, antiche, quindi cereali come il farro, cereali come l'enkir, che è un farro selvatico, stanno ritornando molto nell'utilizzo anche dei professionisti, diciamo così, e questo è un bene perché parliamo di farine macinate a pietra naturale, sono farine vive. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di seguire le singole caratteristiche di ogni cereale nella macinazione per avere un prodotto trasformato al meglio e che sia appunto non standardizzato, ma che comunque vada a ricercare proprio le esigenze del singolo produttore, sia questo privato oppure professionale. Bene, grazie a Fausto Marino, buon lavoro Marino. Sentiamo Andrea dalla provincia di Lecco, un radioascoltatore. Buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente dire che sono d'accordo con lei quando dice che si mangia del buon pane all'estero. Io porto la mia testimonianza, ho dei parenti in Francia, in Germania, a un prezzo base, io compro un buon pane. Qua in Italia se voglio un buon pane devo spendere il doppio, il triplo, o cercarlo biologico, eccetera. Questo non lo trovo giusto, perché alla fine, insomma, bene, grazie. Non è che tutti possono permettersi un gran pane. Un'ultima cosa volevo solamente aggiungere. Noto, a mio giudizio, un difetto. Molti panificatori, almeno qua in Lombardia, strutto. Questo strutto io credo che abbia un costo. Anziché usare lo strutto, proporrei, poi non è il mio lavoro, quindi insomma non posso dire più di tanto. Perché non usare la lievitazione naturale e delle farine magari un po' più buone, anziché mettere questo strutto che probabilmente servirà, credo, a rendere il pane più morbido? Togliamo lo strutto che già insomma fa ingrassare, dopo tutti ce l'hanno col pane che il pane fa ingrassare, insomma, io proporrei questo. Bene, la ringrazio Andrea. Sentiamo, abbiamo con noi Gianfranco Porta, che è dell'Associazione Panificatori della provincia di Cagliari, visto che abbiamo parlato della Sardegna, di questi pani. Volevo chiedere a Porta questo, ma ha sentito questa, diciamo, questa domanda di questo radioascoltatore sull'uso dello strutto? Anche in Sardegna si usa strutto? Buongiorno, saluto tutti e anche i radioascoltatori. Sì, per dei pani così, ma diciamo solo così qualche volta, non è tradizione usare lo strutto sul pane. Ci sono dei pani speciali, hanno lo strutto e sono ben identificati. Ma volevo dire, poi per quanto riguarda il nostro pane, noi nella provincia di Cagliari produciamo ancora il pane con le farine locali, con le semole locali, con l'utilizzo del lievito naturale. E volevo dire che appunto gli studi che sono stati portati avanti da Porto Conte Ricerche stanno permettendo di allacciare tradizione e innovazione, cioè questi lieviti potrebbero dare la possibilità di essere ricchi di batteri lattici e quindi di avere una lievitazione più veloce, perché il problema, fare il pane è un grande sacrificio, un grande lavoro, ci vuole tanta passione per fare il pane e farlo buono tutti i giorni. Non è così semplice e forse c'è anche un po' di confusione sul pane, ecco. E quindi diciamo che questi studi sui lieviti, che non erano mai stati portati avanti, e stanno migliorando sia la qualità del pane diciamo il loro venire avanti, ecco. Bene, Porta, rimanga con noi perché abbiamo tantissime domande e poi ho bisogno ancora di lei. Massimo dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sul tema del forno, che è un elemento importante. Ad esempio, fare la pasta in casa è bello, lega la famiglia, è un concetto di cui ne abbiamo già parlato anche in questa trasmissione. E la stessa cosa è fare il pane, molto bello, però noi in casa abbiamo tutti i forni normali, cioè non quelli professionali. I fornai, i professionisti dicono bisogna conoscere il forno, dopodiché il prodotto viene buono, ma è proprio così? C'è qualche suggerimento? Insomma, come facciamo a fare il pane buono con i nostri forni di casa? Sentiamo Porta se ci dà qualche consiglio. Fare il pane in casa così, diciamo, è più un hobby che non fare il pane in un laboratorio artigiano in cui ci deve essere della professionalità, ci devono essere le attrezzature giuste. Un forno deve raggiungere una temperatura di almeno 300 gradi, 270, 300 gradi, quindi c'è tutto un lavoro dietro. Cioè, fare il pane in casa, appunto, come diceva prima l'ascoltatore, fare, cioè, ricomporre la famiglia, così creare un po' qualcosa, come fare una torta. Ma il pane, il vero pane, ha bisogno di tanto lavoro, di tanta passione, di tanto tempo, perché lievitare con lievito naturale ha bisogno di 4-5 ore di lievitazione, non è una cosa che si fa così velocemente. Ecco perché diviene difficile poi fare il pane. Bene, prego, porta, finisca. Sì, sì, e poi non tutto il pane ha poi quelle qualità, quei profumi, quegli aromi, quella durata, quel mantenimento, diciamo, a lungo. Ecco, prima qui si faceva il pane, proprio il pane cosiddetto del contadino, il sugivraggio, il samudigina, questi pani tradizionali nostri, delle pezzature anche di 2 kg, che restavano buoni per 10-15 giorni. Bene, Gianfranco Porta, grazie. Il gastronauta. Se si dice buono come il pane, forse una motivazione ci sarà, ma continuiamo a parlarne. Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo richiedere agli esperti quali sono i vantaggi che si possono trarre consumando pane integrale, come per esempio che non si gonfia lo stomaco, che non si acquisisce peso, che tiene la glicemia bassa e tante altre cose. Ne esistono degli altri che non conosco. E poi volevo segnalare la differenza di prezzo che di qualità che si trova. Per esempio il pane in pagnotta è colloso, il pane invece è integrale, fatto in palatone o palatine, come si vuole, è più saporito, è più croccante. E poi la differenza di prezzo enorme che si trova tra un posto e l'altro, si parte da almeno il 50, si può arrivare anche a superare i 3 euro. Come mai? Caro Antonio, il mercato è libero, si trovano differenze nel salame, nel prosciutto, un po' in tutto, quindi sicuramente ci si può lamentare che qualcosa è caro rispetto ad un altro prodotto simile, però c'è libertà sui prezzi, sicuramente non è più il pane. Ora sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite, che è Marco Briganti, un giovane mugnaio, per la prima domanda che riguarda il pane integrale. Buongiorno Briganti. Buongiorno Paolini, buongiorno agli amici ascoltatori. Lei, so che è un ricercatore oltre che un mugnaio, ha sentito la domanda del nostro amico da Napoli che chiedeva il pane integrale, quali vantaggi può avere? Sì, guarda, innanzitutto mi definisco un appassionato, ecco, di un'arte bianca che regala veramente tante soddisfazioni e anche tanto sacrificio. Per rispondere all'amico che ha fatto la domanda, devo dire essenzialmente che il pane integrale, sì, da un punto di vista nutrizionale, presenta ovviamente più contenuto di minerali e quindi un valore nutrizionale superiore. Ecco, attenzione ad una cosa, panificare con fermentazioni acide le farine integrali, perché la farina integrale, la crusca e comunque i componenti cruscali tendono a produrre un acido che viene chiamato acido fitico, che non permette di assimilare il calcio. Quindi, collegando un po' tutto il discorso, una lievitazione naturale associata all'impiego di farine integrali è molto indicata. Bene, sentiamo un altro radioascoltatore, Francesco da Verona. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, salve. Niente, mi sente? Sì, la sento, prego, parli. Sì, io volevo dire che siccome oltre al pane faccio anche la birra in casa con quei fermentatori che si possono acquistare tranquillamente in tutti gli esercizi commerciali, insomma, sul fondo del fermentatore della birra si deposita sempre uno strato di lievito. Lievito che ho provato ad usare anche per fare il pane, invece del solito lievito che si compra in giro, insomma. E devo dire che è venuto fuori, a parte il potere lievitante straordinario che ho ottenuto, ma è venuto fuori un ottimo pane. Bene. Inoltre, se uno ha quelle formine per fare il ghiaccio, e siccome è abbastanza liquido il lievito che si deposita sotto, si può mettere in queste formine e mettere in freezer e poi tirar fuori i cubettini quando serve per fare il pane quando uno ha voglia con il lievito di birra. D'accordo. Vero. Bene, grazie a Francesco dei suoi suggerimenti. Torniamo a Marco Briganti. Marco Briganti che continua a fare ricerche, gli voglio chiedere questo, una domanda forse che è apparsa qua e là, ma alla quale in fondo non abbiamo dato risposta. Come si prepara la pasta acida, Briganti? la pasta acida è cioè per lievito naturale, ma ho sentito un po' di confusione, insomma ci sono diversi modi per prepararla. Comunque questo impasto acido chiamato lievito naturale è ottenuto dalla fermentazione spontanea di farine di cereali miscelati con acqua. Ecco, come ottenerla? È comodo perché la farina, fare fermentare farina di cereali richiede dei tempi molto lunghi. Come starter è possibile usare polpa di frutta, anche frutta spremuta. Io consiglio il mosto d'uva, il mio preferito è quello, cioè come partenza, come starter, l'utilizzo del mosto d'uva. Ricordiamo che la fermentazione panaria è molto di collegato alla lavorazione del vino, degli spumanti, insomma parliamo sempre delle stesse cose, lieviti, batteri, che sono piccoli organismi capaci di grandi risultati. E comunque come prepararla, posso dare se vuole un'indicazione anche a chi vuole prepararla in casa. Ecco, veloce, veloce, sì, va benissimo. Brigante. Veloce, spolpare o mela o comunque un frutto, metterlo con una pari quantità di acqua e lasciarlo riposare a 26-28 gradi per 24 ore. Mischiare dopo le 24 ore con metà farina e metà polpa e lasciare riposare per 48 ore. Questo impasto ottenuto, che non deve essere comunque ottenuto aggiungendo acqua e non lasciato troppo morbido per evitare la formazione di muffe, dopo 48 ore dovrà venire a galla, immerso in un secchio d'acqua. A quel punto, con rinfreschi opportuni fatti giornalmente, dopo 30 giorni avremo un lievito madre pronto per la panificazione. Bene, arte molto complessa. Bene, Briganti, io la ringrazio, lei è stato chiarissimo, continui nelle sue ricerche e poi, siccome è così giovane, perché mi dicono che lei è molto giovane, quindi continui con questa passione. A presto, ma ora andiamo a Matera, un altro posto deputato al pane. Andiamo da Antonio Nobile, che è così l'anima di Pane e Pace, questo panificio di Matera. Buongiorno Nobile. Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, caro Antonio, perché il pane di Matera non ha la notorietà del pane di Altamura, nonostante sia un pane straordinario? È un pane prodotto sullo stesso territorio. La notorietà dipende un po' che gli altamurani hanno iniziato prima a lavorarci. Noi siamo buoni secondi, ma anche essere secondi è una buona posizione. Naturalmente lavoriamo per diventare primi e subito li supereremo, siamo convinti. Ecco, a Matera ci sono diversi forni, tra cui appunto Pane e Pace, che cuociono ancora col forno a legna. Sì, difatti è importante. Il forno è un elemento importante nella preparazione di un buon pane. Il profumo del pane che spesso cerchiamo e lo si può ottenere solo nel forno a legna. Questo è un limite per chi prepara il pane in casa, naturalmente. Quindi il forno a legna è molto importante. Il profumo di pane che cerchiamo, purtroppo non potremo più averlo, perché nel senso che per alimentare il forno a legna prima si usava la macchia mediterranea, che era un'essenza oleosa che lasciava tutti quei bei profumi nel pane. Ora purtroppo questa macchia mediterranea non si può più tagliare, perché è stato vietato, perché rischia l'estinzione, per cui abbiamo perso il profumo del pane. Bene, lo troveremo solamente nei libri, in alcune pagine splendide, sì, di alcuni scrittori. Sì, sentiamo, sì. Umberto da Torino, grazie Antonio. Umberto Torino, velocissimo perché devo chiudere. Velocissimo diventa difficile, ci vorrebbe mezza giornata. No. Pane. Io faccio pane, ho fatto 50 anni in metalmeccanico e ho scoperto il forno a legna. E ho imparato con gran fatica a fare il pane nel forno a legna. Adesso lo faccio in casa nel forno elettrico. Semplicissimo, farina normale di... No, io le chiedo solo questa differenza perché non ho tempo. Trova differenza tra il forno elettrico e quello a legna? Beh, a legna prima di tutto è difficile incrociare la lievitazione del pane e la temperatura giusta del forno. Sì. Invece col forno, col termostato in casa è tutto più semplice. Io le dico che stasera vengono le mie due nipotine a dormire da me, perché domani mattina facciamo il pane. Bene, io le auguro una festa meravigliosa. Bene, io le auguro una buona festa, di mangiare un straordinario pane. Purtroppo devo chiudere. Bene, ringrazio tutti i radioascoltatori, chi è intervenuto, i nostri ospiti. Vi do appuntamento alle 12:15 con il Wine Bar e ogni giorno alle 18 con la pillola. Buon weekend e spero che mangiate un pane straordinario. Ringrazio Gigi e Carmelo per l'assistenza e a presto.